usare chi vuoi, usare per poi dover rimpiangere chi c'era. Magari con lui tu ti venderai, malena. È vero che poi piacere ti dà guardare il fondo da lassù, ridendo di noi tu ti venderai, malena. Che prezzo ti fa danzare laggiù? Certo oramai non senti più gli amici nemici che rimpiangerai, malena. Mai nessuno mai si fiderà di te, mai nessuno sentirà che cosa c'è, mai nessuno mai si fiderà di te, mai nessuno mai si sentirà lì dentro. Usare chi vuoi non serve più, diversa lassù tu ti venderai, malena. È vero che poi piacere ti dà, io penso di no, non servirà pensare più a lui che rimpiangerai, malena. Mai nessuno mai si fiderà di te, mai nessuno sentirà che cosa c'è.